cosa velocissima perché tra poco arriva mio marito. Oh, per carità. E quindi neanche dobbiamo fargli scoprire che sta telefonando. Chiamateci anche se avete un marito legno come me e quindi dovete restare a fare tappezzeria. Io sono uomo già, lo dico con determinazione perché sapendo che magari mia moglie mi ascolta. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Prendo di corsa un cappuccino caldo nel bar della stazione. Prima di salire sul vagone suona l'altoparlante, la sua voce indifferente che annuncia il solito ritardo. Guardo il solito ritardo è proprio quello di cui parliamo oggi a Cuore Denari, un tema che interessa quasi tutti: il trasporto. Le ultime settimane hanno registrato la moltiplicazione dei disagi per gli utenti del trasporto pubblico a causa, Nicoletta, del maltempo. Lo sai cosa succede qua a Milano quando non ci piove un po', più. Figuriamoci quando piove tanto. Infatti sono soprattutto le grandi città ad andare in tilt quando piove copiosamente. Ma a parte questo dato di cronaca, noi siamo state stuzzicate da una notizia che abbiamo letto ieri, e cioè che a partire da marzo del prossimo anno Trenitalia, grazie ad alcuni impegni presi con l'Antitrust, l'autorità garante del mercato, rimborserà gli utenti per ritardi dei treni superiori ai 30 minuti. Insomma, siccome i ritardi sono frequenti, questa novità ci conforta. Già un messaggio è arrivato, che dice: se Trenitalia dovrà rimborsare il biglietto per 30 minuti di ritardo, allora i treni faranno fissi 29 minuti, così per noi non cambia nulla, ci scrive già un ascoltatore. Beh, sarebbe anche quello già un bel risultato. Noi speriamo che non facciano nessun tipo di ritardo, ma in realtà già le associazioni dei consumatori non credono a questo impegno, parlano di criticità che dovranno essere corrette. Oltre a questo, a Trenitalia è stata anche inflitta una maxi sanzione da 1 milione di euro, non bruscolini, un milione di euro, tanta roba, Sì, per pratica commerciale scorretta sulla questione delle irregolarità di viaggio nel caso di mancanza del biglietto da parte del viaggiatore. Di tutto questo parleremo nella prima parte della puntata di oggi. Voi iniziate a prenotare i vostri interventi se siete pendolari, frequenti viaggiatori di Trenitalia o avete vissuto una disavventura sul treno. 800 24 00 24. I ritardi dei mezzi pubblici sono sicuramente una delle cose che fanno arrabbiare di più gli italiani. Scagli la prima pietra, nel nostro caso faccia la prima telefonata al nostro numero verde a chi non si è mai trovato in questa situazione, magari un ritardo del treno. Ma io, Deborah, allargherei anche disagi magari sui tram, mezzi pubblici, metro e chi più ne metta. Di rabbia vogliamo parlare nella seconda parte della trasmissione. Raccontateci che cosa vi fa saltare la mosca al naso e se vi arrabbiate e vi accendete, oppure contate fino a 10 o inghiottite la rabbia. Ne parleremo con il nostro esperto. La rabbia di per sé non è mai né buona né giusta né sbagliata, esiste, dobbiamo imparare a fare i conti, dobbiamo conoscerla per provare a gestirle. Quindi vi aspettiamo per fare insieme questo esercizio. 800 24 00 24, un numero verde, non so se per calmare la rabbia, ma almeno per parlare di questa emozione. Annuncio ritardo, il treno 5506 di Trenitalia delle ore 18.04, diretto a Verona Porta Nuova, partirà con 2 mesi di ritardo. No, 2 mesi, veramente un indennizzo stratosferico ci vorrebbe. Allora, questa è solo una delle tante parodie che si possono trovare in rete sui ritardi dei treni. Partiamo da questo oggi e parleremo di questo e non solo. Furio Truzzi, presidente di Asso Utenti, ormai nostro ospite fisso su questi argomenti, ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno anche a voi, anch'io coi piedi a bagno, vengo da Genova e quindi... Altro, accidenti. Allora, Asso Utenti, lo ricordiamo, è un'associazione dei consumatori che focalizza gran parte del suo suo lavoro proprio sulle questioni legate al trasporto. Allora, devo dire che noi abbiamo invitato anche Trenitalia, abbiamo combattuto un po' ieri tutto il pomeriggio con l'ufficio stampa e alla fine la società ha deciso di non intervenire come naturalmente ci aspettavamo. A noi sarebbe piaciuto che ci venissero a raccontare. Noi siamo comunque sempre qua, aperti a disposizione. Ci spiace perché non è che ci aspettassimo una figura dirigenziale chissà di quale tipo, sarebbe bastato una figura che si interfaccia con il pubblico, il customer service, e invece niente. Pazienza, un'occasione persa per loro, una buona per l'associazione dei consumatori. 800 24 00 24 invece il numero verde per i nostri ascoltatori. Raccontateci la vostra vita da pendolari, i disagi, le code per chiedere un indennizzo in caso di disservizio subito, le vostre avventure e disavventure in treno. Raccontateci anche, se volete, di quella volta che siete stati pizzicati senza biglietto. Cosa è successo? Tra l'altro parleremo poi. Devo dire che non mi è mai capitato. A me neanche. Di solito lo faccio. C'è un comitato che abbiamo invitato e poi sentiremo, che ogni tanto fa lo sciopero del biglietto appositamente. Cioè proprio non, anche se lo ce l'ha, timbrato, obliterato, non lo mostra al controllore proprio per manifestare il proprio disagio che si vive ogni giorno su quella tratta. Poi te li faccio conoscere, Nicoletta. Volentieri. Allora, ogni giorno circa 3 milioni di persone in Italia si spostano in treno per raggiungere i paesi e città d'Italia per ragioni di studio e di lavoro. Sappiamo però che il sistema del trasporto pubblico non è considerato soddisfacente nei servizi resi ai cittadini, ritardi, molti mezzi in condizioni discutibili, zone servite in misura non adeguata, insomma i problemi sono tanti e gli abbonamenti e i biglietti non è che siano poi così convenienti se poi paragoniamo quanto spendiamo ai servizi di cui possiamo fruire. Un settore che potrebbe migliorare molto in Italia. Partiamo però con la questione di Trenitalia. Truzzi, ce lo spieghi lei visto che loro non sono venuti. Come mai si è reso necessario modificare i criteri di rimborso per gli utenti che subiscono ritardi? Questa novità, lo ricordiamo ancora, partirà da marzo. Questo si è reso necessario per evitare una sanzione, quindi diciamo che Trenitalia, al fine di non essere sanzionata dall'antitrust perché aveva una modalità anacronistica, per nulla europea, di rimborsi, noi gliel'abbiamo detto spesso nelle carte dei servizi, ogni anno li contestavamo questa, diciamo così, barbarie, questa assoluta complicazione. Pensate, ricordo che il vecchio modo era quello di dopo 20 giorni uno doveva andare, fare, cercare, insomma, i rimborsi, o meglio gli indennizzi, perché di questo si tratta, esatto. non venivano mai. Poi, detto ciò, quindi si sono presi degli impegni. Questi impegni da un lato sono un'apertura all'interesse dei viaggiatori, dall'altro c'è ancora molto da fare. Ecco, fa bene a dire chi, io mi unisco a questi, che sarebbe stato carino che Trenitalia non solo venisse in trasmissione da voi, ma ci convocasse. Se ci convocava prima di prendere questi impegni, non avrebbe poi dovuto correggerli in corso d'opera, perché il dispositivo dell'antitrust dice tu da subito, meglio da marzo, fai alcune cose e poi da ottobre ti impegni a farne delle altre. I punti salienti di questo impegno quali sono? Come veniva ricordato, la disponibilità a indennizzare con il 25% del costo del biglietto quei passeggeri che sono a bordo di un treno, ricordo, di un treno a mercato, per capirci con chi ci ascolta, solo le frecce. Esatto. Quindi questo meccanismo di rimborsi non viene riconosciuto al momento, ed è questa una delle querelle in corso, né a chi utilizza gli intercity, cioè i treni a contratto con lo Stato, né chi utilizza i treni pendolari. Poi su questo, se avrò un secondo, dirò qualcosa. Certo, di no, intanto abbiamo appreso delle nozioni nuove, il treno a mercato e quelli con contratto con lo Stato, quindi le frecce sono quelli a mercato e gli intercity hanno un'altra tipologia di definizione, esatto, sostanzialmente. Esatto. Quindi noi parliamo di un fenomeno che interessa circa il 12-13% dei passeggeri di Trenitalia. Devo dire altresì che questa questione di ridurre a mezz'ora il tempo per l'indennizzo è positivo, però ad esempio la stessa autorità dei trasporti che è stata interpellata dall'antitrust ha detto, onde evitare i si dice e le male voci, ha usato il termine fenomeni di retention, cioè vale a dire che uno può anche fare così per incentivare a prendere le frecce e non i concorrenti. Perché quindi non lo dico io, lo dice l'autorità dei trasporti, quindi c'è questa problematica in corso, comunque un fatto positivo perché è sicuramente interessante abbassare le soglie. Io ricordo che prima della bella decisione del 2007 da noi negli anni 80 i rimborsi avvenivano dopo i classici 30 minuti, ecco, quindi è un po' un ritorno indietro, certo. Solo che una volta rimborsavano l'intero biglietto. Eccolo là. Un altro problema che vogliamo discutere con Trenitalia. Bravo. Adesso l'indennizzo. Loro hanno applicato il minimo dell'indennizzo, noi invece vogliamo un indennizzo più consistente. Ma oltretutto, alcune vostre colleghe associazioni dei consumatori hanno criticato, fra le varie appunto questioni poste da Trenitalia e i vari impegni presi, anche l'entità dell'indennizzo, che è, come diceva lei, è il 25% del costo totale del biglietto, ma soprattutto viene contestato il fatto che venga dato questo indennizzo non in denaro ma sotto forma di sconto su viaggi successivi. Voi come la pensate su questo? Preferireste il contante, ma comunque se sempre credo modalità. Io preferirei il contante, te lo devo dire chiaramente. Ma guarda, però diciamo il voucher è sempre stato utilizzato. Ma diciamo che qui il problema non è andare dietro a Nicoletta, a Furio, a Deborah. Il problema è che potrebbe già essere una buona cosa, ecco, insomma. Se lo fanno con noi tre siamo molto più contenti, però diciamo che la soluzione potrebbe trovarsi benissimo nell'articolo 16 del regolamento, perché mentre l'articolo 17 non specifica, che è quello appunto dell'indennizzo, quello dell'articolo 16, che è quello che quando uno non prende il treno gli viene rimborsato integralmente il biglietto e può chiedere denaro, voucher o altre forme, quindi io applicherei lo stesso criterio. Per cui lasciamo un po' al cliente, no? È un po' come veniva ricordato che bastava anche un addetto alla customer, ecco, parliamo anche a chi fa customer in Trenitalia e diciamo scusateci signori, no? Ma siccome questi episodi per fortuna non sono all'ordine del giorno, perché poi voglio dire che numeri abbiamo noi? I numeri del 2013 parlano di treni in ritardo oltre i 30 minuti circa il 5% dei treni viaggianti, quindi diciamo che a questo 5% che utilizza questi treni, e poi c'è dentro di tutto, non ci sono solo quelli a mercato come ricordavo io, no? Quindi la percentuale tutto sommato mi fa dire che Trenitalia, per dare un buon servizio alla clientela, dovrebbe adeguarsi alle richieste del viaggiatore, quindi chi vuole l'indennizzo in denaro come in Inghilterra o in Spagna esce e va in stazione e ritira il denaro, chi invece intende utilizzare il bonus per altri viaggi si può far accreditare il bonus anche con esatto. un voucher con qualsiasi esatto sistema. E poi comunque soprattutto come diceva lei, se la questione dei disagi e dei ritardi relativi alle frecce riguarda solamente il 5% della popolazione dei viaggiatori, ma prendiamoci cura di tutti gli altri che ogni giorno prendiamoci cura. Io vi farei raccontare quello che succede alla nostra collega della segreteria di redazione Donatella, che arriva da sud di Milano, non c'è un giorno in cui non arriva stravolta in faccia, perché ce n'è sempre una. Infatti Silvana da Pisa ci scrive: per i pendolari come me che devono prendere le coincidenze bastano anche 5 minuti di ritardo per perdere la coincidenza, esatto. Poi bisogna aspettare anche un'ora per la successiva, questa non viene rimborsata. Però Chiara ci scrive che 20 anni fa su un treno delle mitiche nord di Milano ha conosciuto suo marito, conta come disagio? Ci scrive Chiara. Dovremmo interrogarla su qua questo. Qua non ci sono indennizzi che contano. È borderline, come dire, di cui può intervenire sia nella prima parte ascoltatrice che nella seconda per le questioni di cuore. Allora, dicevamo discutibile, lo sottolineava anche Furio Truzzi, la questione di escludere i pendolari dalla possibilità di ottenere rimborsi in caso di ritardo, qualora appunto il provvedimento sia limitato sui treni di media e lunga percorrenza. Sentiamo che ne pensano i pendolari di tutto questo, quelli che tutti i giorni percorrono tratte che in quanto a disagi non se ne fanno mancare uno. Salutiamo Matteo Casoni del Comitato Pendolari in Orario, linea Mantova, Cremona, Milano. Casoni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sono loro, Nicoletta, che fanno... Sono quello dello sciopero dei biglietti. Vero Matteo, che fate lo sciopero? Sì, siamo noi. Ecco, nel senso che praticamente non lo mostrate al controllore quando passa, o non lo obliterate del tutto, proprio il dispetto è radicale. No, noi quello che abbiamo sempre detto è la persona deve essere in regola con il titolo di viaggio, quindi deve avere abbonamento, deve avere biglietto obliterato, deve essere in regola, ma semplicemente non viene mostrato presentando un bonatino dicendo guarda io sono in regola ma per protesta non te lo faccio vedere, certo. Perché la situazione non va bene. Allora Matteo, che cosa ne pensate di questi impegni di Trenitalia? So che la vostra tratta è servita da un'altra società partecipata al 50% da Trenitalia. Voi in caso di ritardi e disagi come venite indennizzati e cosa pensate di queste nuove misure? Ma allora, per quanto riguarda la Lombardia, Trenord sta applicando già una sorta di rimborso, come si diceva prima, sui viaggi futuri, perché vengono calcolate delle medie mensili e due mesi dopo eventualmente si ha uno sconto sui biglietti. Bisogna tenere però conto che ci sono tutti i se e i ma, nel senso che non è solo il viaggio singolo che conta, ma bisogna tenere in considerazione di chi è la colpa, quindi se è di Trenord, se è di RFI, di centro stazioni, se è un evento naturale, per cui tutti questi ritardi vengono poi ricavati, e secondo noi questo non è giusto, perché se io prendo un treno che viaggio con il treno o che ci sia lo scambio rotto di RFI, a me non interessa se ero in ritardo o ero in ritardo, per cui questo dovrebbe essere calcolato a prescindere. Poi sarà Trenord che dovrà farsi carico di farsi rimborsare da RFI, però non il viaggiatore. Quindi questa è già una prima cosa. E poi devo dire sinceramente, vabbè, al di là del fatto che non è giusto escludere la categoria dei pendolari, anche perché veramente io l'ho provato una volta, Matteo, la tratta Milano-Mantova è un incubo, posso dirlo, cioè non è che viviamo... Perché andavi a mangiare i tortelli tu però. E quindi dici che ero punita in via preventiva dalla sorte? Lei no, ha detto, ma è vado. Cioè due ore, quanto ci vuole, Matteo? Ma Mantova-Milano 1 ora e 50. Ma cioè, non per niente, comunque siamo stati inseriti nella categoria delle 10 peggiori linee ferroviarie italiane. Quindi che bel non primato. È che... Quindi ecco. La situazione è così. E bisogna, considerando il tutto, chiaramente, noi abbiamo visto negli ultimi anni in cui Regione Lombardia vengono fatti questi rimborsi, però che c'è anche un trucchetto che viene utilizzato a volte, ovvero secondo noi ultimamente stanno facendo più il conto di cosa costa di più, mi costa far viaggiare un treno o sopprimere e dargli il rimborso del 10%. E cosa fanno? Via, sopprimono e preferiscono il rimborso. Sì, guardano giorno per giorno cosa conviene, sì, questo qui togliamolo, tanto 10% mi costa di meno, questo qui no, facciamolo andare perché altrimenti vado oltre la seconda soglia, allora non va bene. Quindi Matteo, tutti i vostri viaggi ogni giorno sono un po' un terno all'otto? Beh, quello a prescindere, perché quando arrivi in stazione tu guardi il tabellone, speri, poi ti vedi 10, 20, 30, 50... Ecco, a proposito del tabellone, voglio leggervi un messaggio. Il problema dei ritardi, ci scrive un ascoltatore, è che il tabellone annuncia il ritardo, ma non c'è mai personale che dia informazioni per soluzioni alternative. Coincidenze che saltano, che vergogna, scrive, soprattutto posso, con gli stranieri. Io non so quanti visitatori della nostra città, della nostra regione l'anno prossimo per Expo fruiranno dei mezzi pubblici e vorranno andare ogni giorno da Milano a Mantova, non lo so, certo che però... Seveso a parte, se ci presentiamo anche con questo biglietto da visita e ci ostiniamo a non voler far nulla, non è che sia proprio una bella cosa. Grazie a Matteo Casoni, in bocca al lupo per i vostri viaggi. Volevo sentire Furio Truzzi sulla questione dei rimborsi ai pendolari, perché so che prima non ha completato il suo ragionamento. No, ma come dire, Matteo, diciamo che è uno dei più fortunati, non certamente sulle linee che sono tra le peggiori d'Italia, ma sul meccanismo dei rimborsi, perché si contano sulle dita di una mano le regioni che lo fanno. Ahimè, purtroppo, anche l'auspicio che un turista come chi vi ha messaggiato possa ricevere informazioni alternative in caso di ritardo, richiama in causa questa divisione tra treni a mercato e treni a contratto di servizio, sia con lo Stato che con le regioni, per cui nei treni a mercato chiunque di noi prenda le frecce sa benissimo che se c'è un ritardo passa al controllore e ti chiede a che stazione deve scendere, perché ordina i bus sostitutivi e tutto il resto per garantire un certo tipo di accoglienza. Tutto l'altro mondo invece è proprio... un altro mondo con i treni diciamo a contratto che, torno a ripetere, già variegati tra di loro, per cui un cittadino lombardo è trattato diversamente da un ligure, da un laziale, piuttosto che da un pugliese. A questo punto io mi chiedo se non è arrivato il momento che questo benedetto Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti, no, convochi Trenitalia e le regioni e si garantisca parità di diritti. Certo, certo. Non voglio evocare altri scenari d'articolo 18 perché non mi occupo di lavoratori ma di consumatori, però ecco, ci vorrebbe che i diritti per i viaggiatori fossero uguali per tutti, certo. Sia i treni siano a mercato oppure a contratti di servizio, senza allora, viaggiatori esatto. Di serie A e di serie B. Ci fermiamo perché abbiamo la borsa, poi sentiremo, si sono prenotati Vanni da Catanzaro, Gaudenzio Gaudenzio della provincia di Pavia. Poi noi manderemo questa nostra trasmissione a Ministro Lupi, Nicoletta, ma anche al Presidente dell'Autorità Garante dei Trasporti, Andrea Camanzi, che tra l'altro è un'autorità che esiste da poco più di un anno, giusto Truzzi, per cui molto giovane, ma già ha sul suo tavolo dossier infiniti. Spezzi, perché quello di aver fatto diminuire l'affitto delle tracce RFI, insomma, è una decisione notevole. Esatto, a favore di Italo, giusto? Beh, tendenzialmente sì, diciamo che il problema non è solo a favore di Italo, ma se avremo un secondo ne parliamo, dopo la borsa. Cuore e denari. Sbagliato radio, eh? Anzi, vi consiglio di abbassare il finestrino della vostra macchina. Magari il volume, magari... anche perché è bella pompa questa. Bisogna farla sentire forte, soprattutto se magari siamo ad un semaforo e il nostro vicino di macchina la faccia un po' ingrugnita. Sapete perché? Bad di David Guetta è una canzone antirabbia. La ricerca condotta da Spotify, il servizio di musica in streaming, dimostra come la scelta della musica, che da sempre, lo sappiamo, è legata all'umore, abbia un impatto decisivo sulle emozioni e sul comportamento, e in modo particolare questo brano aiuterebbe ad incanalare correttamente le sensazioni legate alla rabbia. Cosa ne dite? Avete altre canzoni da suggerirci o tecniche da raccomandarci? 800 24 00 24, tra poco con il professor Cavedini, professore alla scuola di psichiatria all'Università di Firenze, parleremo di questa emozione, che tra l'altro è uno dei 7 vizi capitali. Altro che. Se vi arrabbiate, raccontateci cosa fate quando siete arrabbiati o cosa fate per inghiottire la rabbia. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Dei desideri o treni che lasciano a desiderare? Mi piace questa battutina, grandi, grandi i nostri ragazzi. Quello che possiamo dire è che i rimborsi per i ritardi saranno più rapidi a partire dal prossimo anno e dovranno cambiare anche le sanzioni ai viaggiatori senza biglietto, dopo che l'antitrust ha multato Trenitalia per 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta. Trenitalia si è formalmente impegnata a ridurre i tempi degli indennizi a favore dei passeggeri a partire da marzo 2015. Quindi stiamo parlando di tutto questo argomento senza Trenitalia. Vabbè, pazienza, insomma, una cosa che mi è rimasta un po' qua, mi spiace. Ho visto. Che non siano... Ti sei un po' arrabbiata? Mm-hmm. Ieri un po' di più, oggi vedi? Mi sono calmata, ma vedi, ieri quando mi ha detto seconda... di no, ma mannaggia. Comunque mi sono subito ristabilita nell'umore, perché Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, nostro uomo d'oro su questi temi. Un uomo antirabbia, dai. Mi sono rassicurata. E naturalmente stiamo raccogliendo le vostre testimonianze all'800 24 00 24. Sentiamo allora Vanni da Catanzaro, che aspettava da un po'. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vanni. Complimenti a Deborah Rosciano e Nicolette Carbone, ti ascolto sempre molto volentieri. E complimenti a Vanni! Woo. Eccolo qua! Allora, volevo... Pronto? Ci dica un po', ma adesso ritorniamo subito di cattivo umore, cosa le è successo? No, niente di terribile. Io vado periodicamente a Roma per lavoro. Tempo fa... La Freccia Argento ha fatto 45 minuti di ritardo. Io sono arrivato da Lamezia a Roma, invece di 4 ore ha messo 4 ore, ha impiegato 4 ore e 3 quarti d'ora, e 45. Sì. E sono andato subito alla biglietteria e ho chiesto il rimborso del biglietto. Mi hanno chiesto di fare una domanda che poi dopo qualche mese mi sarebbe arrivato. Sento il ritorno della mia voce, comunque. Noi la sentiamo bene, Vanni. Mi spiace per lei che sente il ritorno. Comunque, ecco, le hanno riconosciuto il bonus, Vanni, o no? Ci ha messo un po' di tempo. No, hanno fatto diversamente, perché io ho protestato violentemente e ho chiesto di parlare con un responsabile. Ebbene, dopo 10 minuti mi è arrivato il rimborso in contante dell'intero biglietto. Vedi? Ah, così, quindi proprio bisogna farsi venire il fumo agli occhi, come si dice. Manda Vanni a chiedere. No. Adesso... Quindi questa novità non mi sembra tanto nuova, questa cosa, perché se uno... si sa come dire, districare nelle situazioni varie. Lo so, Vanni, più però, che districare, alzare la voce e arrabbiarsi però molto. Immagini adesso, a parte il fatto che non tutti hanno tempo, magari ecco, un treno arriva con 45 minuti di ritardo. Lei immagini se tutti avessero fatto quello che ha fatto lei quel giorno. Per noi funzionerebbe meglio un sistema automatico di indennizzo. Ma no? Certo. Ecco, che dice lei? Truzzi, lei che ne pensa del caso di Vanni? Di Vanni è, come dire, l'eccezione di questo paese. Si è trovato di fronte un funzionario che, vista la situazione, ha ritenuto opportuno tacitarlo applicando quello che nemmeno il regolamento di Trenitalia prevede, quindi buon per Vanni, ma non penso che il messaggio sia quello di dover sbattere i pugni no. ogni volta che arriviamo in ritardo. Certo, no. Però Vanni, però Vanni lo utilizziamo per chiamare la prossima volta Trenitalia e per averli qua. Esatto. E diciamo, ti facciamo chiamare da Vanni. E per richiamare no, tutte le volte. Devono rispondere, insomma, di questi anomalie, insomma, se no uno perde la fiducia, ecco. Peraltro, in realtà, il caso di Vanni mi dà anche il pretesto per ricordare che ci sono molte persone, che naturalmente molti passeggeri, che non sono consapevoli dei loro diritti, o per pigrizia o per paura di procedure troppo lunghe lasciano correre. In realtà, su tutto questo nuovo sistema di indennizzi, Truzzi, Trenitalia dovrà fare anche delle belle campagne di informazione. Assolutamente sì. Esatto. Diciamo campagne che pubblicitarie che poi scaricherà, speriamo, no, sui nostri biglietti per pagarsela. Ecco. Diciamo che questo io oggi sono proprio cattiva. Formalmente dovrebbe essere escluso. In ogni caso, questa campagna è un po' dei fiori all'occhiello, per cui l'antitrust ha deciso poi di non sanzionare. Noi diciamo, coinvolgeteci, ecco, non fate da soli, perché i viaggiatori li conosciamo, conosciamo i meccanismi, e comunque sia, ad esempio, un SMS a tutti quelli che utilizzano il web o per le prenotazioni sarebbe anche gradito, ma certo. dare suggerimenti. Un SMS con il ritardo che si sta, per esempio, accumulando, no? No, ecco, cioè io devo andare su pronto treno, vedermi il ritardo, questo vale poi, no? E quindi si può fare veramente molto di più, torno a dire. Si tratta di capire se Trenitalia sceglie di entrare in Europa dopo che è stata anche approvata la Carta dei diritti del passeggero, che ricordo siamo stati uno degli ultimi paesi ad approvare, e quindi estende questa situazione a tutti e poi generosamente mette le mani al portafoglio, perché torno a ripetere, il 25% è molto poco. Ecco, noi genovesi siamo sensibili al No, tra l'altro, mi scusi Truzzi, poi dobbiamo chiudere, però un'ultima considerazione, se ci riesco sentiamo anche rapidamente Gaudenzio. Non è che questo indennizzo sarà, come dire, automatico? Allora, il mio treno fa 31 minuti di ritardo e in automatico mi viene rimborsato questo 25%, indennizzato questo 25%. Ci sarà comunque una pratica di richiesta di istruttoria ad aprire, e Ferrovie possono contestare e dire questi 30 minuti non sono riconducibili alla nostra responsabilità? Diciamo già, una prima cosa che vale anche per l'amico pendolare Matteo di Mantova: dal 2013 settembre, non, anche grazie a una sentenza europea, non c'è più storia. Il gestore della linea è responsabile quanto il gestore della rotaia, quindi qualsiasi causa va bene per dover dare il rimborso. L'automatismo è auspicabile per chi, torno a ripetere, usa il web, insomma sistemi online. Attualmente l'impegno prevede i 3 giorni e noi chiediamo di arrivare al 1 ottobre al, come si dice, no, in gergo, just in time, cioè al rimborso just in time, per cui se io sono cliente Trenitalia, viaggiatore Trenitalia, sono nelle loro banche dati, fate la cortesia, accreditatemi se ho dato l'ok per il bonus, se no sarà poi il mio compito andare alla stazione più vicina, come torno a ripetere succede in tanti paesi d'Europa, e avere il denaro. E noi staremo qua a vigilare. Gaudenzio, in 30 secondi ce lo deve raccontare il suo caso. Gaudenzio, sì, sì, veloce. Io l'anno scorso, io e mio fratello, con l'intera famiglia, 7 persone, partiamo da Mortara, biglietteria chiusa, c'è la cassa automatica, sì. La cassa automatica non funziona. Sì, certo, come me molti. Vabbè, paghiamo sul treno. Sì. Noi siamo andati per portare i figli a vedere il Duomo a Milano, siamo andati in 7 persone, 7 con i figli. Non c'era nessuno? Non c'era nessuno, sul treno nessuno, siamo andati fino a Milano da Mortara, al ritorno. Belli tranquilli. Uguale. Belli tranquilli, io sono pronto a pagare. Dimostro che non funzionano le macchinette. Certo. Io ho fatto andata e ritorno in 7 persone senza pagare niente. Eccolo là. Lei ha vendicato tutti quelli che ogni giorno ne subiscono di ogni, Gaudenzio. Un indennizzo naturale ha avuto. Grazie, grazie al nostro ascoltatore. Insomma, vabbè, anche questo non va bene, però. No, però no. Gli è andata bene, io sono contenta. Va bene. Truzzi, a presto, monitoreremo adesso le prossime scadenze, ce le segnali degli impegni di Trenitalia, così noi così li monitoriamo mese per mese. Grazie molte. Vi tengo subito informato. Arrivederci. Buona a giornata. Presto. Cuore e denari. Signore e signori, il capitano comunica che abbiamo raggiunto la nostra quota di crociera. Ci auguriamo che il film sia di vostro gradimento. Mi scusi, potrei avere un paio di cuffie? Sono subito da lei, signore. Scusi, chiedo scusa, mi potrebbe dare un paio di cuffie? Non alzi la voce con me, signore. Io non sto alzando la voce. Ok, stia calmo. Sono calmissimo, vorrei soltanto le cuffie. Ci sono problemi, signore? No, nessun problema, è che signore, vorrei... cerchi di calmarsi. Si calmi. Sono calmo! Ci sono mille ragioni, Deborah, oltre ai ritardi del treno, no? Che possono scatenare la nostra rabbia, lo sappiamo bene tutti, per esperienza diretta o indiretta. La rabbia è una tra le emozioni più precoci, ci arrabbiavamo anche da piccolissimi, quando la mamma non ci dava retta. Deborah, anche i tuoi nipoti, no? Si arrabbiano, la mamma non le dà retta. Michele, domenica, aveva fame, c'è stato un attimo in cui proprio non ne voleva sapere. Vedi? Di parlare. E quindi, insomma, non è mai giusto o sbagliato, esiste. Dobbiamo prenderne atto, comprenderla e gestirla al meglio, trovare il modo, come si dice. È un'esperienza forte, sicuramente molto comune, che ognuno vive secondo le proprie specificità individuali. Ciascuno, insomma, si attrezza nel tentativo di gestire al meglio la situazione. C'è chi tenta in tutti i modi di reprimerla e c'è chi invece si lascia andare e sbotta, la tira fuori tutta. Parliamo di Balotelli, stiamo ancora a parlare di Balotelli. Siamo ancora a parlare di Balotelli. Cioè, con tutti i problemi che noi abbiamo al calcio italiano, noi ancora stiamo a parlare di Balotelli, se va in discoteca o se non va in discoteca. Io lo trovo ridicolo e assurdo. Io lo trovo ridicolo e assurdo che stiamo ancora a parlare di Balotelli, con tutti i problemi che ci abbiamo, tra virgolette. Eccolo qua, lo sfogo di Conte. Sì, sì, ieri ce ne ha avute proprio per tutti. Era proprio, io, vedi, la vele del collo. Gli scoppiavano. Allora, voi che fate? La sfogate o la reprimete? 800 24 00 24, parliamone oggi insieme. Siete un fiammifero, vi accendete subito e vi spegnete con altrettanta rapidità. Siete un diesel, ci mettete un po' ad accendervi, insomma, per farvi arrabbiare ci si deve mettere d'impegno. Oppure siete come un fiume, lasciate correre e scorrere questa emozione che, come ricordavamo, è anche uno dei 7 vizi capitali. Chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Paolo Cavedini, psichiatra e professore alla scuola di psichiatria all'Università di Firenze. Professore, bentornato e buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e bentrovati a tutti. Benvenuto. Professore, fiammifero, diesel, fiume, che dice? Le piacciono queste tre parole? Ci allora, aiutano? Abbinarci qualche tipo di rabbia diversa a queste tre parole. Allora, fiammifero mi viene in mente più una rabbia da sfida, una rabbia esplosiva di chi non vuole seguire le regole. Il diesel mi sembra più una rabbia da frustrazione, no? Quando qualcosa, qualcuno ci negano quello che vogliamo, gradatamente ci arrabbiamo e ci sfoghiamo. Invece il fiume di quelli che lasciano scappare, ma poi covano una tipica rabbia da risentimento, una rabbia più proiettata verso gli altri, che spesso è la peggiore perché è quella più incontenibile. Quindi mi sembrano abbastanza pertinenti questi tre termini che hai utilizzato. Allora, se volete profilarvi anche voi, 800 24 00 24, fiammiferi, diesel, fiume. In linea con noi abbiamo già un'ascoltatrice, vediamo come si definisce. Intanto gli diamo subito il benvenuto con un super sorriso, perché è Adriana, la nostra prima ascoltatrice della puntata di oggi. Adriana, buongiorno. Buongiorno a tutti, io mi definirei entrambi, tutti e tre. Tutti e tre. Sa che lo pensavo anche io, Adriana, che a seconda delle circostanze ci trasformiamo un po' in fiammifero, diesel o fiume, a seconda dell'occorrenza. Anche perché, voglio dire, un fiammifero esplode. Io con il mio problema, tra virgolette, non ho mai esploso, finché un giorno o l'altro andrò addosso a qualche macchina al mattino presto. Narro due secondi la mia vicenda. Ogni mattina un pezzo di strada ci sono i soliti, tra virgolette, i soliti idioti, sorpassano questa fila immensa di macchine per incanalarsi all'uscita, ma non una, due, tre macchine. A me è venuto il mal di stomaco. ogni mattina evito di guardarli, perché sennò andrei addosso con la macchina, mi viene voglia di scendere e dire: ma tutti quelli che sono in fila qui sono degli cretini, dice sono Lenza, proprio sì, sì, non lo so. Adriana, nella pagina del nostro programma abbiamo messo una sorta di test questionario. Professor Cavedini, come possiamo descriverlo? È una sorta di tentativo di identificare delle situazioni e dei modi di reagire per poter in qualche modo arrivare a capire come gestiamo e come viviamo la nostra rabbia. Ecco, un po' questo. Ecco, provi Adriana a mettersi un po' alla prova, come si dice, e il professor Cavedini magari poi le dà qualche indicazione. Ma quindi a lei sente questa rabbia e dice: mi viene addirittura il mal di stomaco. No, a me viene il mal di stomaco veramente. Cioè, mi devo girare perché io dico, non so, sono io la stupida, che sto qui, cerco di essere ligia nel mio andare al lavoro. Siamo tutti qui per andare al lavoro, voglio dire. Insomma, ad Adriana fanno venire i nervi, i furbi, come lei li ha descritti, anzi lei ha detto i soliti idioti. E ci racconta, professor Cavedini, il lato fisico della rabbia. Lo raccontano anche tanti modi di dire che fanno proprio riferimento alle modificazioni che sentiamo nel nostro corpo quando siamo invasi da questa emozione. E questo capita nel caso in cui la buttiamo fuori, la esterniamo, ma anche quando la reprimiamo. Proviamo a pensarci: mi è salito il sangue alla testa, sono rosso di rabbia, mi mangio il fegato, Adriana diceva mi viene il mal di stomaco, i nervi tesi, non ci ho più visto. Insomma, professore, la rabbia è un'emozione forte, fisica direi, forse più delle altre emozioni. Assolutamente sì, tutte le emozioni hanno dei correlati fisici specifici, ma la rabbia direi che è una che ha correlati più forti degli altri. Innanzitutto ha una tipica espressione facciale, no? Che molti studi indagano le espressioni facciali correlate alle emozioni, che sono riconoscibili un po' in tutte le culture. La rabbia, se ci pensiamo un po', per la persona arrabbiata davanti a noi, aggrotta un po' la fronte, le sopracciglia, digrigna i denti, quindi in qualche modo ripercuote un po' un senso di tensione globale, no? La nostra muscolatura si contrae e talvolta, come dire, c'è questo conflitto tra l'essere bloccati ma l'essere altamente irrequieti. E poi ci sono tutta una serie di reazioni fisiologiche del nostro organismo che hanno a che fare con il nostro sistema nervoso autonomo: il battito cardiaco aumenta la pressione del sangue, c'è un incremento in sudorazione, che sono tutte quelle reazioni fisiche che generalmente si generano involontariamente nel nostro organismo quando ci prepariamo ad affrontare un pericolo, come se dovesse in qualche modo reagire. Ecco, in questo caso il pericolo può essere più o meno esplicito, ma la nostra reazione è una reazione più di difesa che di attacco in quel momento. È un'emozione, professore, che noi sentiamo nel cuore ma che nasce nel cervello. La rabbia è un suo circuito, e ho letto che è un circuito che in qualche modo ripercorre quello degli attacchi di panico, tema di cui noi abbiamo parlato più volte, che magari avremo occasione di riprendere come tema. Cuore e denari. Sì, hai ragione, sei perfetta. Io non ho fatto niente di giusto in 15 anni. Tu non mi stai ascoltando. Non ti va mai bene niente. Non si è mai detto che tu ascolti. Ho detto ti attacchi a ogni minima cosa. Ma tu dormi? No, le mani addosso, no, porca miseria. So anche le 4 di mattina. Ma per chi mi ha preso per ostaggio? E poi ti ha autorizzato a toccare i miei fogli, questi sono i fogli del libro di Hendrix. Siamo tornati insieme, fiammiferi, diesel, fiumi, 800240024, raccontateci che tipi siete, come gestite, come affrontate la rabbia, vi arrabbiate subito, la inghiottite, la covate, come vi fa sentire la rabbia, dopo che vi arrabbiate fate una strillata, vi sentite meglio, vi sentite in colpa. In linea con noi abbiamo il professor Paolo Cavedini che ci aiuterà a vederci chiaro. Professore, prima dei GR ci siamo lasciati raccontando che la rabbia ha un circuito nel cervello che è in parte sovrapponibile a quello degli attacchi di panico. Ci racconta? Sì, allora parliamo di rabbia e parliamo generalmente di un sentimento molto complesso che però, come dicevamo, ha anche delle basi biologiche che da un certo punto di vista spiegano come alcune persone siano più predisposte di altre fondamentalmente ad arrabbiarci. Noi ci arrabbiamo quando in qualche modo qualcosa ci altera il nostro equilibrio emotivo, e sotto la spinta di questi elementi di provocazione o in qualche modo di fronte a delle paure rispetto alle quali temiamo la nostra reazione, ecco, in qualche modo vengono rimossi quei freni inibitori che normalmente ci bloccano. È importante perché da un certo punto di vista, al di là dei circuiti cerebrali specifici, che come diceva lei Nicoletta sono prevalentemente un po' quelli dell'ansia e quelli del panico, questa componente biologica fa sì che si attivino determinate aree del nostro cervello più che non altre, e quindi, come dire, la predisposizione che ciascuno di noi ha maggiormente di arrabbiarsi rispetto agli altri ha anche una connotazione ben specifica, quindi non è semplicemente legata alla nostra capacità di controllarci o di gestire bene le situazioni. Quindi ci sono persone più predisposte alla rabbia e persone sicuramente meno. Nicolò D'Alessandria ci scrive: sono un fiammifero impregnato di gasolio. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori, perché vogliamo farci dare anche dal professor Cavedini dei consigli, perché professore, noi notiamo che in qualche modo la rabbia avvelena un po' la nostra quotidianità, e soprattutto in questo periodo vediamo che ci sono le tensioni, sono manifestazioni alte, molto esasperate, sì. Allora, come dobbiamo porci, ciascuno con la specificità individuale? Dove andiamo? Allora, allora qui abbiamo due situazioni. C'è chi ci racconta come spiega la sua rabbia, un altro ascoltatore che invece ci racconta come la reprime. Cominciamo con Giulio dalla provincia di Brescia. Buongiorno Giulio. Sì, buongiorno. Sì, forse l'ho presentata in maniera un po' confusa, lei sarà più preciso. Sì, non si preoccupi. Nulla, io sono un grande appassionato di film d'azione con sparatorie, sì, arti marziali, e mi chiedevo, è un segnale di rabbia repressa? E se sì, è positivo questo mio approccio a questo tipo di film? Grazie Giulio, non mi sarebbe venuto in mente questo legame, che probabilmente è indicativo invece, professor Cavedini. Diciamo che c'è un'attenzione maggiore verso determinate tipologie di minacce, poi il fatto che sia in qualche modo semplicemente un modo di esprimere dei gusti, delle situazioni, delle attitudini, non per forza significa che quella persona, che il nostro ascoltatore che guarda quei film è di per sé una persona in qualche modo rabbiosa né tantomeno violenta, però sicuramente è un aspetto del suo modo di vivere le cose. Vorrei chiedere anche agli amici che ci seguono da casa se negli ultimi 6 mesi, 1 anno, il professor Cavedini ci darà un riferimento temporale, il vostro modo di arrabbiarvi è cambiato, sono cambiate le ragioni per cui vi arrabbiate e anche il modo in cui vivete la rabbia. Professor Cavedini, anche questa trasformazione nel tempo può darci delle indicazioni? Innanzitutto dobbiamo distinguere quelle situazioni in cui in qualche modo si degenera un po' nella componente patologica, quindi capire un po' i segnali di allarme di questa condizione credo che sia estremamente importante. Vedi Nicoletta, noi dobbiamo arrabbiarci, sì, questo va bene, ma dobbiamo arrabbiarci nel contesto giusto, nella condizione giusta e con l'intensità giusta. Come Aristotele, no? Purtroppo però non è sempre così. L'ha fatto una citazione così, che noi avevamo però appuntato già, Aristotele. Sì, ma perché sarebbe la cosa più ragionevole. Peccato che parlavamo prima di circuiti, i circuiti che gestiscono la rabbia non hanno a che fare con la componente razionale. Certo. Quindi è un costante conflitto, tra il nostro cervello emotivo e il nostro cervello razionale. Per cui questo è importante, soprattutto come questa adeguatezza, in qualche modo riusciamo a contenerla rispetto alle problematiche che poi potrebbero semplicemente complicarci la vita, no? Pensiamo a reagire in situazioni, scaricare sempre la nostra rabbia nei confronti degli altri, da una parte fa bene, ci protegge, alcuni studi dicono anche dai rischi cardiovascolari, no? Abbassare lo stress scaricandolo, ma dall'altra parte le persone che ci stanno accanto non sarebbero affatto felici di vederci costantemente reprimerli, no? Allora, e quindi questo poi comporta compromissione dei rapporti, eccetera, eccetera. Insomma. No, io sono incuriosita, dottore. No, guarda, mi piace Carmen, perché te lo raccontavo a microfoni spenti, sì. Io un pochino mi ci riconosco in Carmen, che racconta di non riuscire ad arrabbiarsi, parla soprattutto del rapporto con i suoi allievi, ma diventa gelida. Dottore, anche io ogni tanto cado in questa tentazione, più che scoppiare mi chiudo e praticamente divento questo iceberg, no? Inavvicinabile. E che manifestazione è questa? No, non è sicuramente meglio della rabbia, nel infatti. Senso che da un certo punto di vista una delle caratteristiche più importanti è quella che in gergo tecnico si chiama dell'assertività, cioè quell'aspetto del nostro comportamento che ci consente in qualche modo di capire innanzitutto cosa proviamo, ma anche di saperle esprimere in modo chiaro, in modo efficace, le proprie emozioni, le proprie opinioni, perché altrimenti sia la reazione eccessiva di rabbia, sia la reazione eccessiva di chiusura, riccio all'interno di questa situazione è un atteggiamento, un comportamento totalmente disfunzionale. Poi chiaramente dipende dalle situazioni, ma non è sicuramente la strada migliore, quindi non è trattenersi, chiudersi, non comunicare, non trasmettere ciò che si prova. Questo sicuramente bisognerebbe provare a non farlo. L'iceberg, io mi chiamo Titanic, no? L'iceberg di Titanic. Allora, ma neanche un piccolo iceberg, un iceberg gigante che è anche peggio. Gennaro, buongiorno dalla provincia di Salerno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Gennaro. Lui non conta fino a 100, fa dell'altro per calmarsi. Io quando non posso urlare, perché quando mi arrabbio caccio un grosso urlo e poi... quando non posso arrabbiarmi caccio un grosso urlo, poi faccio dei grossi respiri e nel 99% delle volte mi calmo. Quando non posso urlare porto il pollice e l'indice all'interno degli occhi, vicino alla parte vicino al naso, diciamo, e premo leggermente e poi faccio dei grossi respiri e quasi sempre nelle... riesco a quindi, fermare la rabbia. Quindi quando i suoi amici o sua moglie la vede con il naso pizzicato, spatigli, dice stiamogli lontano Gennaro, ecco. Sta cercando di sbollire. Hai 5 minuti. Comunque grazie Gennaro, questo funziona, speriamo. Allora noi proviamo un po' a raccontarci. 800 24 00 24. Salvatore da Brescia ci scrive: di solito non mi arrabbio facilmente, ma spesso dopo me ne pento. Professor Cavedini, questa frustrazione dannosa. Allora, se sbottiamo poi ce ne pentiamo, se la buttiamo giù poi invece ci rode il fegato e stiamo male, somatizziamo. È difficile. Dai messaggi che arrivano e dalle telefonate che tra poco ascolteremo, tutti noi diamo una connotazione negativa alla rabbia. In realtà non è nata solo per farci star male, per nuocere. Professore. No, assolutamente no, ma infatti il problema è sicuramente non è quello di in qualche modo di pentirci e da un certo punto di vista di sentirci in colpa. La rabbia ha una valenza estremamente positiva, una carica vitale notevole. Pensiamo un po' alla rabbia: con la rabbia noi riusciamo a reagire dalle situazioni difficili, ne riusciamo a riprenderci anche un po' dai fallimenti, no? Quella sana rabbia che ci fa reagire, riusciamo anche tante volte a far capire alle persone che ci stanno accanto qual è un po' quello che noi vorremmo, no? Quindi ci sono tantissimi aspetti positivi della rabbia, quindi nonostante sia un'emozione etichettata come un'emozione negativa, di fatto è una spinta vitale, tant'è che è una spinta molto legata alla capacità fisiologica dell'organismo di reagire, no? Ecco, mi scusi professore, girando un po' su internet, ho letto su un blog: la rabbia è un'energia primordiale molto potente, è sia fuoco che carburante, sta a noi usarla per incendiare o andare sulla luna. È esattamente quello che stavamo dicendo, no? Nel senso che è come dire, sfruttare un po' questa energia, cercare di utilizzarla, di capirla, di comprenderla, di modularla. Sarebbe bello se riuscissimo a esprimere la rabbia senza necessariamente urlare o sbraitare nei confronti degli altri, con tutte le conseguenze che questo spesso comporta. Quindi dobbiamo cercare di canalizzarla e di sfruttarne i lati positivi, che come abbiamo visto sono tanti. Quindi è estremamente importante che ci sia uno strumento di difesa, ma anche uno strumento di crescita molto importante. Sentiamo la testimonianza di Silvana, dalla provincia di Belluno. Sì, e poi dato che a parlare di rabbia abbiamo fatto saltare la mosca al naso a qualcuno, perché abbiamo detto che c'è sul nostro profilo l'autotest per un po' fare un po' una autodiagnosi, allora ci offriamo volontari e il professor Cavedini ci testa. Testerà. Noi ci sediamo, ci sediamo già pronti. Siamo già cuffiate. Allora, prima Silvana. Silvana, buongiorno. Silvana, buongiorno. Ci ha incuriosito molto l'anticipazione della sua testimonianza. Ma la sentiamo così sorridente. Com'è possibile? A me un po' meno, sinceramente, perché è stata, diciamo che è stata anche la mia salvezza, perché io penso di non aver fatto infarti, ho 68 anni in vita mia, proprio perché manifesto molto bene la mia rabbia, purtroppo per chi mi è vicino. Quindi è un bel fiammiferino, Silvana. No, sono povero da sparo, non mi se mi salta la mosca al naso proprio sfogo tutta la mia rabbia, non la trattengo, a volte sì la trattengo, però il più delle volte la sfogo e con molto piacere. Vede professor Cavedini, ma Silvana è molto contenta. L'importante è che lo siano anche le persone accanto a lei, che non deve essere facile. No, è una rabbia in qualche modo che cerca di far fuori un po' tutte le potenziali minacce, anticipando un po' i pericoli e le situazioni di conflitto, e quindi in qualche modo utilizza un po' questo suo tratto caratteriale per prevaricare un po'. Ecco, però professor Cavedini, insomma, cerchiamo di dare anche un po' un limite o un ordine di, no, se tutti i giorni notiamo che ci arrabbiamo per qualche cosa o per qualcuno, prendiamo sempre dei pretesti, ecco lì un attimo di riflessione bisogna farla, no professore, perché ci sono persone che hanno dei momenti in cui sono davvero inavvicinabili, si arrabbiano per il traffico, per il ritardo, si arrabbiano con il collega, si arrabbiano, no, se sbagliano qualche cosa. Quando diventa troppa? Quando diventa un segnale veramente di un nostro disagio? Allora, partiamo come abbiamo detto sin qui, che non c'è una rabbia giusta, una rabbia sbagliata, ma la rabbia va capita, analizzata. È chiaro che se diventa eccessivamente intensa, eccessivamente pretestuosa, se in qualche modo, come dire, scatta indipendentemente dalle situazioni e diventa, come dire, un limite abbastanza importante alle relazioni, alle opportunità, per cui può causare determinate conseguenze, sicuramente qui stiamo andando oltre. Un altro collegamento importante che mi sembra il caso di sottolineare è il collegamento tra rabbia e violenza, perché non è detto che le persone rabbiose per forza reagiscano, perdono, come dire, il controllo e diventino al tempo stesso violento, ma quando la rabbia diventa violenza, la rabbia non deve essere la giustificazione della violenza stessa. In questo caso il problema non è più la rabbia, ma diventa un meccanismo un po' di discontrollo della nostra impulsività, che in questo caso evidentemente non possiamo far finta che non ci sia, e va affrontato e va curato. Questo è un aspetto secondo me estremamente importante. Guarda un albero durante la bufera. La cima dell'albero ti appare instabile e vulnerabile. Il vento può spezzare i rami più sottili in ogni momento. Se abbassi lo sguardo, però, e guardi il tronco, vedi qualcosa di molto diverso. In quel punto l'albero è solido e resiste alla bufera. Noi siamo come un albero. Quando siamo turbati, la nostra testa è la cima dell'albero che viene scossa di qua e di là dalla tempesta. In quel caso, dobbiamo portare giù l'attenzione al livello del nostro tronco solido, al livello dell'ombelico. Cima al vento, in balia dell'emozione, tronco solido e radicato. Deborah, ti piace questa immagine dell'albero? È meravigliosa, mi piace moltissimo. Tiglatan. Sì. Allora, teniamola lì perché può venire utile. Intanto salutiamo il maestro Tetsugo Enserra, autore di Lo Zen 2.0, La via della felicità, Mindful Zen, edito da Cairo. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Tra l'altro ci fa molto piacere una new entry del nostro Daily Lab. Ah, allora ben trovato e benvenuto. Allora, e buon lavoro. Quando siamo arrabbiati, noi insomma ci in qualche modo ci roviniamo la giornata, perché la rabbia avvelena un po' la nostra quotidianità, è uno dei veleni che ci rovinano la vita, come ci ha scritto un nostro ascoltatore. Ma come dicevamo oggi, la rabbia c'è e dobbiamo prenderne consapevolezza. Come insegna d'altronde anche la Mindful Zen. Sì, sì, assolutamente. Come diceva prima il professor Cavedini, bisogna stare attenti a non eccedere, e per non eccedere basta accettare di essere arrabbiati. Se accettiamo di essere arrabbiati, abbiamo la consapevolezza di quello che stiamo facendo. E quindi, anche se può sembrare strano, abbiamo la rabbia sotto controllo anche se siamo arrabbiati, quindi questo è molto importante. Anche se accettare le cose come sono è veramente difficile. soprattutto accettarci arrabbiati, perché a me, io quando mi arrabbio mi faccio venire anche un po' di rabbia, mi arrabbio mai vista, posso dire. Peraltro Nicoletta ha avuto il piacere di vedermi arrabbiata, io non ho avuto invece il piacere di vedere lei. È vero, no, ma è così. Allora lascio che l'acqua, come dite maestro, diventi trasparente. Che l'acqua diventi trasparente, sì, ma che è un modo più elegante per dire conto fino a 10, poi l'emozione arriva, poi magari se ne va, come sì. Un po' l'onda sulla battigia. Sì, sì, l'emozione sicuramente arriva e se ne va, ma l'importante è viverla, perché reprimerla fa molto male al cuore, contrariamente a una persona pensa la rabbia fa male al cuore, reprimerla ancora di più. In più la rabbia dà autostima, perché dà affermazione di noi stessi. Nel suo libro, che io vi consiglio di leggere perché è un libro molto bello, Zen 2.0, suggerisce meditazioni molto brevi. Sì. Possiamo chiudere, maestro, dicendo se vi arrabbiate meditate? Sì, sì, assolutamente, perché la meditazione di consapevolezza, subito dopo essere sbottati, dopo essersi arrabbiati, ascoltare il cuore che si calma, perché il cuore si eccita e il cuore invece piano piano si calma, e questa tranquillità del cuore ci porta al momento presente, alla consapevolezza, ci porta all'apertura per affrontare l'argomento per cui ci siamo arrabbiati. Quindi è molto semplice, ma molto efficace. Grazie al maestro Tetsugen Serra, Mindful Zen 2.0. Potete leggere anche i suoi post sul nostro Daily Lab. Grazie al professor Paolo Cavedini. Siamo sfuggiti all'autotest. Al test, ma allora ripristiniamo subito una assolutamente trasmissione. Andate quando comunque. Quando le feste ci fanno venire un po' di rabbia, perché non tutte le aspettiamo, non tutti li aspettiamo così volentieri i momenti di festività. Che dici? Ne parleremo, faremo una puntata ad hoc. Grazie, prof. Buona giornata. A presto. Cuore e denari.